C'è qualcuno? Non avete finito di pranzare? A dormire se ne parla stanotte, voglio digerirla. Che poi io però l'ho preso anche la notte, dopo che ceno mi faccio il caffè e niente. Dopo che ceno sì, faccio il caffè e me lo bevo anche. Cosa avete risolto oggi? Niente? Non so cosa dire. Cosa che è successo non è la vista? La mia sta andando bene, però se più in là mi dovesse dare qualche fastidio, al limite ci possono essere i radiali buoni, lo stilo. No, che scusa, ce la tiene lui, scusa, se ce la vuole, ce la tiene lui di scorta. Mica dà il radiale a nessuno, si tiene tutto lui, anche perché il piantone, cambiamo solo il piantone, la qualificazione diamo a quella che c'è già lui, che già vulcanizzata e tutto, capito? Io non vado a frugargli il sedere se l'antenna funziona bene. Vedo che tutti mi sentite forte e chiaro, pertanto rimane così fino a quando non accende. Poi quando non accende vuol dire che va bene così. Allora si comprerà nuovo e buf. Io non è che sto temendo che l'antenna ne scenda a pezzi, perché quando l'abbiamo piantata benissimo, anzi, più che bene, perché vedo che è ancora lì. E niente, no, io penso che con andare dal tempo, siccome i radiali che c'ha sono in vetroresina, e la vetroresina al freddo, al caldo, si sciuppa un po', ora si sparina piano piano, e penso che anche io mi toccherà fare la stessa cosa, a me nel radiale, se pure questo mese tronca per il vento, ok, allora faccio prima comprare l'antenna nuova. Ma infatti si fa così, io lascio questa perché funziona perfettamente bene, l'ho tutta sistemata e basta, siamo messo il radiale nuovo, che è fatta ripulita, rimessa a posto. Io ho caricato questa furia come tutti i giorni e niente, adesso ci scambiamo le chiacchiere, poniamo la pipa e ti raccappa a cra. E tu alla visita sei andato? A fine mese devo andare. Ah, per fine mese la visita, in casa. Capo a cavallo che l'erba cresce, quando ti abituai a sapere che una maniera se ti muri. E così fai tu, là, là, al vivo. Quando stai peggio, allora ti chiamano alla visita, che cani morti che sono. È proprio vero, eh. Quando non sono loro malati, degli altri se ne fregano. Non lo sai così, purtroppo è sigarico. Oggi ho trovato nella buca delle lettere il nuovo tesserino, dove c'è il codice fiscale e il tesserino della salute fa anche. E quando hai bisogno di qualcosa devi andare con quello lì. Ai ai ai. Anche tu l'hai ricevuto? Claudio. Ah, sento Gianni, doppio rum, se sei all'ascolto, cambio. Adesso quello non c'è. Sì, non ce l'ho, allora cambiamo quello. Ah, è K. Ah, e io appena che l'ho visto ho detto, cos'è questa cosa? Poi ho letto il foglio, c'è scritto se devi andare a fare visita specialistica devi avere quello lì. Anche per ricevere le medicine devi presentare quello lì. Sono le 2:16, lui alle 2:30 va giù a aprire. Vabbè, vuol dire no, non ne ha voglia. Non la gana, gappa, se non si trova facendo il foro per passare il capo, ma non so, vabbè. Ok, sì, ma io vedo cosa fare, praticamente sostituisce un po' tutti quei fogli e fogliettini che avevamo sempre appresso là. Buongiorno, signori. Buongiorno, Lu. Oia, sono un sacco molto, oia. Ho dovuto scappare da là. Ho detto, prendi un po' di pane stamattina, no, altro ci andiamo a luna. E per quello gli dai i due, ma tu prendi il furgone e vai a mangiare. E gli tu, beh, chi vuole? Ecco, mi è arrivato un codice fiscale, allora, cosa che tu è qua? Ma il codice fiscale, c'è il codice fiscale e la tessera sanitaria. Il tuo progetto sanitario, quando devi andare al medico devi andare con quello, in più fa anche la codice fiscale. No, poi avevo già il libretto sanitario io, quando lavoravo in panificio. Vabbè, una magna, se tutto va bene me l'attacco dopo. Allora mi fate compagnia fino a là, cioè tu a me mi fai compagnia, arrivare là al posto di lavoro. Così ci rilassi anche le ossa un po'. Andrà bene a me, da riprende qua. Ai ai ai, vabbè, bisogna già mangiare. Ah, io oggi ho mangiato solo una frutta, beh, a pranzo, poi a sera vediamo a cera cosa mangiare. E anch'io sono un po' così. Stare a casa a me, me lo trovo preso quello in giro, stamattina santo. La mattina stasera vado della ritiratina della porta, scusato a Roberto, sono andato così in giro a attaccare le cantenne, boh. K, e beh, e almeno ti slaghi anche un pochettino, se rimani intrappolato dentro casa e figli un intratto, diventi nervoso e niente, là, che stai male, chiuso in casa, nervoso. E praticamente queste figlie diventano figlie di merda, scusando il termine, però è proprio così, eh. E infatti, pure il telefono è anche bello, no, ma è certo magari a pescare la mattina. C'è freddo, Mario, c'è freddo. sta a pagare, è purtroppo così, eh. Davvero, è così e non ci possiamo fare nulla, no, e io mi buh. Adesso non lo so se per domenica mentre buono, al limite ci vado un po' con le canne, senza la barca, perché la barca ancora deve muda e infusa ed è un bel preda. Come si chiama? Fai chiama pelle lì sotto alla Camisturia, la sta incollando col Bursic, sotto pieno di Bursic sopra dopo lucidato. Praticamente io ieri l'ho lucidata, la luce della luce, sicuramente stanotte è scesa un po' di umidità e ci vedono dei segni strani. Ma mi ha fatto tutta la massa, mi ha fatto tutta la luce di luce e mi ha dato un cubio, no. Vengo a corte, la mia idea, mi devi dare tra le due tarranti. Grazie, diciamo, non lo so io, no? No, guarda, meglio di voi si muove. La marca è città nuova. Conta prima, può andare. Lui non può pretendere, ma è mica sulla miseria, pretende il burro, vai, vai. Ma Lucia, chi su chi mi tocca, l'avevo fatta, Lucia, Lucia. Questo è il nome da dargli, e rimane così la barca. Ai. Stai là entri, Mario. Io me, ancora 10 minuti, poi mollo tutto e vado al lavoro. Perché alle 3:05 devo essere lì. Poi andare a Cagliari. No, oggi è arrivato un po' di merce e devo lavorare lì a metterla a posto in magazzino. Sono arrivato un po' di tubi, un po' di raccorderia in letto, roba così, e i radiatori di riscaldamento, da quelli in alluminio. Caffa. Ma se questo panino, questo arancio, pongo in moto, vado al negozio, lo prendo la roba che è rimasta nella basca e poi devo risalire là. Kappa. Così è. Allora, ma stasera non lavori più, porti quella roba e poi te ne ritorni. No, devo lavorare, Mario, devo lavorare. Ma pure a te è arrivata la pezza da oggi, Mario? No, ieri mi è arrivata a me. Ieri mattina mi è arrivata. È arrivata la tessera, stavo guardando, che cavolo è. Poi mi sono messo a leggere il tesserino nuovo, là, che è fatto col codice fiscale, che sostituisce anche il codice fiscale. Però per andare a visita, per andare a prendere medicine, c'è scritto che devi portare quello lì. Andare a dura. E deve essere che l'hanno fatto per quello spreco delle medicine, hai capito? E per non stare a portare il codice fiscale, quello, quell'altro, almeno quando vai c'è tutto lì ed è risolto il problema, non devi portare carte e cartine. Oggi è vero, ma praticamente sostituisci anche il foglio del medico. No, il foglio del medico è come che, credo che andrà a finire che sostituisce la ricetta, perché tu vai lì, presenti quello lì, ti fai dare il medicinale che ti ha chiesto il medico e buh, perlomeno, credo che sia così, poi non lo so. Facciamo un letto. Ma da una parte è meglio che si semplificano queste cose, perché ogni volta, per carità, si va a vincere del gaffo. Vabbè, oggi sono andato alla motorizzazione, lì sono già stata l'altra. Vado, gli ho chiesto i corsi e mi ha mandato allo sportello 1. Faccio la fila allo sportello 1 e mi dice di andare di nuovo allo sportello 2. E lei da non vede, è andata a fare pure un affare di lui. Che ha tornato a dare al giudizio, ma mi sembra bello lì, se non capisce dica che non ha capito. Ho detto viene qui, mi manda a uno sportello a fare la fila e poi quello sportello mi rimanda qui, dice sì ma io non ho capito che cosa voleva lì, e allora dimmi che non hai capito anziché stare a pigliare in giro. Porca l'idea, che gente, vabbè, cosa ci vuoi fare, purtroppo loro comandano loro. Vabbè, che è avuto a te, mi sono ragazzi a fare il fatto di scandalo, ma scandalo però. No, io l'ho già saltata, cioè non gli ho detto le parolacce, perché io sono una persona educata, però quello che gli dovevo dire glielo ho detto, che non ero venuto lì per farmi prendere il giro da lì, cretina. Vabbè, già rimbassa. Ma scusa, se non le capitano 5 o 6 così. sei dietro uno sportello, non sai perché cosa sei dietro uno sportello, che cosa ci rimane a fare? Ma se tu non ti roma le poste, ci sono sei sportelli, la tappi sempre due. Due, la sportelli la in giro, girando la dentro l'ufficio. Beh, perché sennò si stancano troppo. Perché tu devi fare la fila, hai capito? Perché il loro tempo è pagato, il cubo no. No, tu stai pagandoli, devi pure pagare, non solo se andrà via, devi pure pagare. Cappa cappa, beh, così è. Claudio! Allora, sono per il computer, dai. Cappa cappa, là. E io mi ti saluto e mi preparo per andare nuovamente alla carica. È vero. Ciao, Cla, cose belle, divertiti. Niente, tutto alle prossime, là. Anche a te, Luca. Ci risentiamo stasera. Ciao, ciao. Ciao, Mario. Ciao, buon lavoro, là, stasera. Ciao, Mario. Ci sentiamo stasera, là. Per scaricarlo poi nel computer. No. ci fai proprio voi tu. Cosa mi dice quello? Non devi fare uno squillo prima di scendere, che così non fa male.